Demoni bussano alla porta, tu non farli entrare. Bruciamo lenti sti fiori del mal. Soldi sulla mia lista delle cose da fare. Fredde ste collane, qui per decollare non ci puoi fermare. Imprenditori senza diploma, euro chiusi dentro la stagnola. Non imparano a fare qualcosa, imparano a fare quei soldi, si fregia fuori da scuola. Per ogni madre che piange, vede suo figlio diventare grande. Vede quei soldi ma non chiede niente. Non ci sono bugie se non ci sono domande. Dammi 10 G che li fumo, 10 drink che li bevo. Fatto che se collo mi proteggono dei demoni dietro. Voglio un orologio costoso coi brillanti dentro. Renderà migliore il mio teo, renderà migliore me stesso. Sai che adesso quelli ero sì ma mica da adesso. Nessun patto col diavolo per il successo. Entro non chiedo il permesso, fumo dove non è permesso. In testa cari un girano all'indietro, camion ti investo un impero. Demoni bussano alla porta, tu non farli entrare. Bruciamo lenti sti fiori del mare. Soldi sulla mia lista delle cose da fare. Fredde ste collane, qui per decollare non ci puoi fermare. Il tuo odio mi scivola addosso, non ci vai con noi, ce l'hai con te stesso. Non vedo un cazzo come un uomo cieco. Diamante al collo si muovono a scatti. Io e la gang abbiamo dei problemi. Piscio sopra i soldi, butto soldi a terra. Catena a maglie fredde come ghiaccio. Brillano così tanto che non riesci a guardarmi. Damoni alla porta, baby faccio entrare. Sto pensando ai soldi e come farli in fretta. Questo gioco no, non mi diverte. Medusa morta ti lascia di gesso. Fumo lamponi, frutti di bosco. Occhi strappati, rossi come sangue. Questi pensano di impressionarmi. Demoni alla porta, baby faccio entrare. Spazzo via ste puttane come un bulldozer. Tira fuori tutto il cash della cassaforte. DPG 777 mondo visione. Fottuto Parex baby, spero che muoia. Non puoi tenere queste fibre pesanti. Affianco la tua tipa senza stare sull'auto. Chili nelle case con le statue di marmo. Gli infami non li voglio accanto, non mi piacciono. Puttane non le voglio accanto, non mi piacciono. Non vogliono me, ma i miei numeri sul braccio. Uno, due, tre, guarda come partiamo. Falsi dai, strisciano come serpi. Guarda in alto, fulmini come Zeus. Lasciamo buchi nel cielo. Principe pare che il blasetto gang, no, non puoi toccarci. Demoni bussano alla porta, tu non farli entrare. Bruciamo lenti sti fiori del mal. Soldi sulla mia lista delle cose da fare. Fredde ste collane, qui per decollare non ci puoi fermare.